vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 22 settembre, il sole in regione sorto alle 6.55 tramonterà alle 19.04. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. È il tempo delle mele, bilancio di una stagione buona ma contrastata. Il capitulare De Villis di Carlo Magno specificava anche quali verdure coltivare nelle tenute regge. Come preservare il suolo di fronte ai cambiamenti climatici. Le piante che hanno fatto la storia dell'uomo e cambiato l'agricoltura del vecchio continente. Nella rubrica del vino, capitolo dedicato alla gestione della vinificazione a caldo. Il bosco come scrigno di biodiversità ma anche di paesaggio. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. È il tempo delle mele, si stanno avvicinando le feste di Panchianicco e Tolmezzo e noi con Peter Larker dell'azienda Pomis facciamo un po' il bilancio di questa annata che si sta per quasi concludere. È stata un'annata abbastanza impegnativa perché siamo partiti con una primavera molto piovosa, siamo arrivati fino a giugno dove le temperature erano molto basse per il periodo e continue precipitazioni, quindi la lotta un po' ai funghi e agli insetti è stata, diciamo così, molto attiva. Dopodiché è arrivato finalmente il caldo e l'accrescimento è stato ottimale. Ci ha penalizzato un agosto molto molto caldo, troppo caldo, e infatti le varietà precoci, quelle che abbiamo iniziato a raccogliere la prima settimana di agosto, è stata una varietà che non ci ha dato grandi soddisfazioni perché dal punto di vista organolettico si sono affievoliti un po' i profumi e i colori non erano molto accesi. È arrivato poi finalmente la pioggia d'agosto che ha raffreddato il bosco e quindi temperature sono tornate nella normalità, forse anche un po' sotto, e le varietà successive, quindi quelle normali, non precoci, hanno recuperato, diciamo così, l'ultimo momento e abbiamo un'ottima qualità e anche la produzione è molto costante nella norma. Cosa state raccogliendo adesso e quali saranno le ultime? Allora, adesso abbiamo iniziato appunto le Gala, abbiamo già finito le Golden e adesso stiamo raccogliendo le prime Granny Smith, l'Imperatore, poi ci sono alcune varietà nuove che stanno maturando. Termineremo al mese di dicembre con le Pink Lady. Come sta andando invece il prezzo? Il prezzo non è male perché a livello europeo c'è un forte calo di produzione dovuto alle gelate primaverili e a alcune, diciamo così, problematiche di malattie fungine che si sono sviluppate per la troppa piovosità primaverile, e quindi il prezzo ha recuperato qualcosa. Bisogna però sempre tenere in considerazione che anche i costi sono aumentati parecchio perché i mezzi tecnici sono sempre più costosi, soprattutto quello che incide tantissimo è la manodopera sulla nostra cultura che fa ancora tanta differenza. Ne trovate di manodopera? La manodopera si trova, con difficoltà, ma si trova. Noi per esempio nel nostro caso la manodopera è più o meno sempre quella costante, ma c'è stato fatto un fortissimo cambio di mentalità di produzione. Cioè una volta si raccoglievano tutta la produzione in 4 settimane, oggi invece la raccogliamo in 4 mesi, quindi meno personale e più costante, più lungo termine. Walter Zucchiatti, che ci cura la nuova rubrica del cibo nella storia, e quindi dell'agricoltura nella storia, aveva iniziato con il capitulare De Villis di Carlo Magno e oggi, sempre dal capitulare, ci parla della coltivazione e della gestione delle verdure. Nella precedente puntata abbiamo esaminato alcuni canoni del capitulare De Villis dell'imperatore Carlo Magno, relativi alla fornitura di prodotti agroalimentari alla corte da parte delle tenute regge. Il canone 70, l'ultimo, obbligava volumus, vuol dire vogliamo, era un ordine, non un consiglio, chi aveva in cura gli oltre di coltivare ben 71 tipi vegetali, officinali e gastronomici, e non è poca cosa. volumus, si legge, che in ogni orto siano contenuti tutti questi vegetali, e segue un elenco che in questa sede non è possibile scorrere per intero, ma dal quale estrapoliamo alcuni particolari che solo di recente, grazie all'opera di pochi appassionati, sono riemersi da un lungo letargo. La lista comprende 3 fiori, giglio, rosa e gladiolo, 23 erbe officinali, fra cui fieno greco, costo balsarnita, coloquintide, visnaga, antrisco, nigella, bardana, pulicaria, dittamo, sisimbrio, tanaceto, erba gattaia, vulgagine, altea, catapurzia, selargia, barba di Giove. 17 aromatiche, fra le quali, oltre alle più note, salvia, rosmarino, prezzemolo, erba cipollina, menta e via, ruta, abrotano, cumino dei prati, scilla, mentastro, coriandolo, cerfoglio. 28 piante commestibili, dal cetriolo al fagiolo d'allocchio, dalla lattuga alla carota e alla pastinaca, dal melone alle zucche, ai ceci, al finocchio, al sedano e levistico, a varie biete cavoli, a cipolla e aglio, ai cardi, alle fave di palude e ai piselli e altre, a tutt'oggi comunissime sui banchi di ogni mercato. Lo stesso canone prescriveva che negli orti venissero coltivati meli, peri, prugni, peschi e ciliegi di diverse specie, cotogni, sorbi, nespoli, castagni, noccioli, mandorli, gelsi, allori, fichi, pini. Dei meli si facevano i nomi di alcune specie: gozmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, che erano dolci o agre, tutte adatte a fare marmellate. Da altri documenti sappiamo che il pesce di più largo consumo era quello di acqua dolce, perché quello di mare doveva essere essiccato e affumicato o messo sotto sale, operazioni molto costose. Quello d'acqua dolce rappresentava perciò l'alimento ittico più economico, essendo pescabile nei fiumi, laghi e stagni, e perché i vivai potevano essere costruiti semplicemente sbarrando con canne graticci le anse dei fiumi e alcuni tratti di specchi di A. Per chi volesse approfondire l'argomento, il capitolare de Villis è stato pubblicato nel 1981 a Milano da Epli e nel 2013 a Udine da Gaspari. Parte dal suolo il ciclo di interventi di Cristina Micheloni sull'adattamento dell'agricoltura alle variazioni del clima. Prima puntata su come l'agricoltura può adattarsi al clima che tumultuosamente, velocemente e imprevedibilmente cambia. E non si può che partire dal suolo, tema che abbiamo toccato più volte nelle scorse stagioni, ed oggi cercherò di mettere assieme i tanti elementi che lo rendono strategico nell'affrontare sia la siccità come le precipitazioni estreme, accumulare CO2 e tanto altro. Un suolo con una buona dotazione di sostanza organica, o chiamatela humus più vi piace, mantiene una maggiore quantità di acqua per tempi più lunghi in caso di siccità. Infatti, ogni punto percentuale di sostanza organica permette, in media, di accumulare 340 ettolitri ad ettaro di acqua e metterla pian piano a disposizione delle piante. È poco? No, è tanto, è tantissimo, è quel che basta per superare 20-30 giorni senza pioggia, dipende anche da altri fattori. Ed è solo l'1%, se facciamo di meglio, beh, ça va sans dire. Per dire, un terreno di media pianura gestito con criterio per la produzione di seminativi può arrivare al 3% di sostanza organica e anche di più. L'effetto della sostanza organica si esplica attraverso la capacità degli acidi umici di assorbire tanta acqua, fino a 20 volte il loro peso, ma anche attraverso il miglioramento della struttura del suolo, che, quando arriva troppa pioggia in tempi ristretti, torna buona per il drenaggio. In sintesi, quando piove tanto, l'acqua viene in primis assorbita e poi l'eccesso drenato senza compromettere la struttura del terreno, che significa senza provocare frane o smottamenti e senza troppa erosione. La sostanza organica del suolo è il più efficiente modo per stoccare carbonio e impedire che vada in atmosfera, mitigando così l'effetto dell'agricoltura sul clima. La sostanza organica è cibo per i tantissimi organismi che nel suolo vivono, Ricordiamoci che ben un quarto della biodiversità sta proprio lì nel suolo e attraverso di loro si trasforma in nutrimento per le piante, proprio quando e come le piante lo necessitano, evitando lisciviazione e perdita di nutrienti che si trasforma in inquinamento delle falde. Bando alle ciance, come si porta sostanza organica nei suoli? Intanto cerchiamo di non perderla, ossidandola, il che significa ridurre o evitare le lavorazioni aggressive del suolo con rivoltamento della zolla. Poi portiamoci tutto quello che è sostanza organica pulita, senza residui di antibiotici, fitofarmaci, plastica, metalli pesanti. O coltiviamocela in loco. Nello specifico scenderemo nelle prossime puntate. Intanto vi segnalo che lunedì 23 settembre, giornata europea del biologico, c'è un bellissimo docufilm sul tema al visionario di Udine, Common Ground, un viaggio tra i pionieri dell'agricoltura biologica rigenerativa negli USA, che con radicalità e coraggio propongono e attuano diverse tecniche per riportare in salute i suoli ed emanciparsi dall'egemonia delle big companies del settore agroalimentare. Ci vediamo al cinema! Prima puntata della nuova rubrica che ci cura il professor Raffaele Testolin, che ha voluto intitolare Le piante che hanno fatto la storia dell'uomo. Bene, iniziamo oggi un nuovo ciclo di vita nei campi e, avendo raccontato tutto quasi sulle specie da frutto e come si coltivano, iniziamo una nuova avventura alla scoperta delle piante che hanno fatto la storia dell'uomo. Eh sì, perché è perfino difficile immaginare come sarebbe stata la storia di molti popoli senza la scoperta dei cereali e del loro uso, senza l'introduzione in Europa della patata e del mais dal Nuovo Mondo, senza la diffusione del tabacco, del cotone, della canna da zucchero nelle colonie a seguito delle scoperte delle Americhe. Hobhouse, un affascinante scrittore, dice che l'uomo non ha fatto la storia. La storia l'hanno fatta le piante che l'uomo andava scoprendo e diffondeva nel mondo. Parleremo di specie che ci interessano da vicino, essendo colture diffuse ampiamente nella nostra regione. Parleremo di frumenti, orzi e farri. Parleremo di patata, mais, melo e vite. Parleremo anche di piante che non coltiviamo, ma il cui prodotto è entrato nella nostra cultura non solo alimentare, come il caffè, il tè e il cacao. Parleremo di spezie come il pepe, i chiodi di garofano, la noce moscata, tutte spezie entrate nella nostra cucina ma che forse non sappiamo da dove vengono, come non l'hanno saputo gli europei per secoli. Saranno storie affascinanti. Una volta conosciute capiremo perché le grandi monarchie europee si sono date battaglia senza esclusione di colpi per controllare il mercato di queste colture, giocando con la vita di molti popoli. È un'occasione per crescere culturalmente e operare scelte responsabili, non dimenticando che il pianeta su cui viviamo l'abbiamo avuto in eredità e dovremo consegnarlo alle generazioni future in condizioni decenti. E allora che l'avventura cominci. Nel lungo capitolo della macerazione del pigiato, oggi il professor Roberto Zironi ci parla della gestione della vinificazione a caldo. Per applicare la macerazione a caldo, l'uva di raspata, pigiata e addizionata in desolforosa alimenta in continuo gli scambiatori di calore che la riscaldano. Nel caso di una vendemmia sana, per risparmiare energia, si riscalda solo una parte del pigiato separando con lo sgrondatore una parte del mosto. L'aumento di temperatura deve essere molto rapido per superare velocemente i 35-45 gradi centigradi, dove riscontriamo il massimo di attività enzimatica ossidativa. Dopo il riscaldamento sino a 70 gradi centigradi, il pigiato sosta a questa temperatura per 20-30 minuti. Successivamente il mosto viene riportato alla temperatura ambiente, pressato, e il mosto colorato ottenuto è rimescolato con il mosto separato prima del riscaldamento. Una chiarifica dei mosti consente di ottenere durante la fermentazione aromi fruttati, ma poiché gli enzimi petrolitici vengono distrutti dal calore, per il limpidimento si devono utilizzare procedure fisiche come il decanter, filtri rotativi sottovuoto o la flotazione. Dopo la chiarifica, la fermentazione alcolica avviene a temperatura controllata, normalmente inferiore ai 25 gradi centigradi. In alternativa, con una procedura definita flash detent, il pigiato di raspato, parzialmente sgrondato, viene portato all'interno di un recipiente particolare dove viene mantenuto in regime di alto vuoto. Durante il trasferimento al recipiente, il pigiato è portato in meno di 2 minuti ad una temperatura di 90-95 gradi centigradi mediante iniezione diretta di vapore. La bassa pressione all'interno di questo recipiente provoca la vaporizzazione istantanea di parte dell'acqua presente nel pigiato e l'evaporazione provoca il raffreddamento molto rapido dello stesso alla temperatura di 30-35 gradi centigradi. In questa operazione si determina anche un aumento della pressione intracellulare che indebolisce e rompe le strutture cellulari. Il pigiato proveniente dalla vasca sottovuoto o viene pressato o sottoposto a una macerazione con tecniche tradizionali di 3-4 giorni. Anche con questa tecnica, alla temperatura di 91 gradi in poco più di un secondo, si ha la denaturazione dell'enzima laccasi prodotto dalla botitis cinerea. Le tecniche di macerazione ad alte temperature, originariamente sviluppate per vinificare uve poco mature o affette da botitis cinerea, consentono oggi di produrre vini molto apprezzati anche da uve mature e sane, con un notevole risparmio in termini di manodopera. I vini risultanti dal trattamento termico del pigiato sono spesso considerati più aromatici e dei colori più intensi. Sono più morbidi in bocca e normalmente destinati ad essere bevuti giovani. La loro struttura tannica non è infatti normalmente adatta alla maturazione, ma questo problema può essere superato abbinando il trattamento termico con una breve macerazione tradizionale. Le meraviglie, caratteristiche e sorprese che ci può riservare un bosco in questo intervento dall'ispettore della forestale Dario Di Gallo. Nel comune immaginario, formatosi ascoltando le celeberrime fiabe dei fratelli Grimm come Hansel e Gretel o La Bella Addormentata, i vasti boschi o le dense foreste del nostro territorio, dove possiamo ammirare grandi e vetusti alberi, rivestono ancora un fascino speciale, dove mistero e fantasia giocano nel nostro inconscio un ruolo ancora molto importante, attirandoci con un sentimento diffuso e distintivo di interesse e curiosità. La nostra regione, una delle aree maggiormente boscate d'Europa, è caratterizzata da un territorio estremamente differenziato dal punto di vista morfologico e biologico ed offre una così ampia varietà di aspetti naturalistici da rendere il nostro patrimonio di boschi e foreste unico per il suo prezioso ed elevato grado di biodiversità. Dalle profumate pinete della costiera triestina ai luminosi lariceti di Sauris, il nostro percorso ci porterà a conoscere, anche camminando, le principali strutture forestali del Friuli Venezia Giulia. È bene ricordare che se possiamo godere dei benefici sia ecologici che produttivi delle nostre foreste, grande merito va alla regione e alle sue lungimiranti politiche di conservazione e gestione a lungo termine, attuate per mezzo delle azioni svolte sul territorio dal personale del Corpo Forestale Regionale, quali l'applicazione delle tecniche della selvicoltura naturalistica, che tiene giustamente conto anche delle esigenze produttive ed economiche, inserendo contemporaneamente numerosi incentivi alla formazione professionale degli operatori del settore per ammodernare le competenze tecniche, ecologiche e culturali, ampliando nel contempo il settore infrastrutturale con la creazione di una moderna rete di viabilità forestale. Ma sarà la grande bellezza di queste complesse strutture naturali a guidarci in questo itinerario di conoscenza, dove suggeriremo anche il modo migliore per visitare e godere di questi luoghi nei loro molteplici aspetti, godendo del variare delle stagioni e dell'armonia dei luoghi. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 21,20 e 21,40 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,70 e 20,20, l'orzo tra 18 e 18,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 1,40 euro il quintale, mentre il frumento è diminuito di 2,20 euro. Nel comparto dei bovini da macello i prezzi in generale non hanno registrato variazioni e le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,35 e 3,95 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,75 e 3,35. Anche nel settore dei vitelli da ristallo la tariffa è stabile con i brubelga maschi che vengono quotati tra 7,20 e 7,80 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 5,40 e 6 euro, i frisoni fra 2,40 e 2,90, i bruni alpini tra 1,70 e 2 euro. Il mercato dei suini ha confermato invece una tendenza diversificata, con i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda in calo a 3,67 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello si quotano in aumento a 2,22. Nel comparto caseario la Commissione Camerale di Pordenone Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli-Venezia Giulia, quotandolo tra 52 e 55 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Nell'ambito dei foraggi, per scarsa richiesta di prodotti, i prezzi sono stagnanti. L'erba medica di prima qualità viene quotata tra 10 e 10,50 euro al quintale IVA esclusa. Il fieno Mazzengo di pianura si paga tra 6 e 7,50 e la paglia di cereali pressata si quota tra 6,50 e 8 euro al quintale. Infine, prezzi in leggero aumento nel comparto degli avicunicoli. Il valore dei poliatera oscilla fra 1,41 e 1,45 euro al chilo IVA esclusa. Quello delle anatre da 3,15 a 3,25, i tacchini maschi da 1,73 a 1,75, le faraone da 3,25 a 3,33, i conigli oltre 2,5 kg da 2,23 a 2,29 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 22 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Settembre 2024 sarà ricordato, almeno per quanto accaduto finora, con temperature molto altalenanti. All'inizio sono state molto elevate, con valori medi fino a 5-6 gradi sopra la norma e con valori massimi che hanno raggiunto i 36 gradi sulla pianura, mentre a partire da giovedì 12 siamo scesi improvvisamente anche 6 gradi sotto la norma, con la comparsa della neve oltre i 1300 metri circa, decisamente abbondante in quota sulla catena carnica orientale nel Tarvisiano, mentre sulla costa è arrivata la bora, con raffiche fino a 100 km orari a Trieste, che ha soffiato, seppur moderata, poi per gran parte di questa settimana. La temperatura del mare, dopo che nei primi giorni aveva toccato i 28-29 gradi, è scesa ora attorno ai 21-22. Siamo passati in pochi giorni da temperature estive da alta classifica a quelle decisamente autunnali. Ora però i valori sono nuovamente un po' sopra la media del periodo. Oggi l'anticiclone manterrà condizioni di tempo stabile e temperature gradevoli. Da domani invece l'avvicinamento di una depressione atlantica favorirà l'afflusso di correnti sud-occidentali progressivamente più umide ed instabili. Avremo quindi un progressivo peggioramento con cielo nuvoloso e con piogge sparse intermittenti, specie dal pomeriggio, che poi alla sera diventeranno anche intense e temporalesche, specie sulla pianura, sulle prealpi e forse anche sulla costa. Martedì, nella notte fino al mattino, rovesci temporaleschi con piogge da abbondanti ad intense. In giornata rimarrà nuvoloso, saranno ancora possibili dei rovesci sparsi, specie sulle zone orientali, e soffierà vento moderato da sud o sud-ovest sulla costa. In serata aumenterà di nuovo la probabilità di pioggia su tutte le zone. Mercoledì avremo nuvolosità variabile con atmosfera umida e possibili piogge sparse. Giovedì e venerdì, con l'avvicinamento alle Alpi di una nuova marcata depressione atlantica e la presenza di correnti sud-occidentali umide, probabilmente avremo un periodo prolungato di piogge intermittenti, da abbondanti ad intense e anche temporalesche. Le temperature, con l'arrivo nei bassi strati di masse d'aria dal Mediterraneo, rimarranno stazionarie attorno ai valori medi del periodo. Su pianura e costa, le massime saranno intorno ai 22 gradi, le minime fra 14 e 17, e probabilmente sarà poi più fresco nel prossimo fine settimana. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se a San Maurizio al fa seren, vintos l'unviarca il ven, ovvero se il giorno di San Maurizio, il 22 settembre, il tempo è sereno, l'inverno prossimo sarà ventoso. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.